cuore e denari. I consigli della settimana. E siamo arrivati alla parte conclusiva della nostra puntata. Domenica entriamo come sempre in famiglia e lo facciamo con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Alberto, buongiorno. Allora, questa settimana ci occupiamo come sempre dell'attualità, in particolare di due notizie che hanno generato grande dibattito e che hanno per protagonisti gli adolescenti in modo diretto o indiretto. Quali sono quelle che hai scelto? Ma la prima notizia riprende il dato di cronaca sulle baby prostitute di Roma. Questa settimana noi siamo stati tanto colpiti dal fatto che i giornali ci hanno raccontato alcuni indagati eccellenti. Io credo che invece proprio su una notizia del genere dovremmo dimenticarci i nomi e i cognomi e provare come adulti invece a fare una riflessione più attenta sul fatto che al di là di chi sia che commette il reato, che fa il crimine, ci sono troppi adulti fra di noi che hanno davvero allentato i freni inibitori, non solo nella relazione sessuale con un minore, ma proprio nel vedere, pensare, parlare e comunicare con i minori. Troppi di noi hanno profili Facebook dove ci sono un sacco di contatti con persone che hanno 30 o 40 anni di meno, per esempio. Molti insegnanti anche gestiscono profili Facebook dove invece che mantenere magari solo un ruolo professionale mischiano moltissime informazioni personali rendendole accessibili a ragazzi o ragazze che stanno crescendo. Credo che questa confusione di ruoli faccia davvero male ai nostri figli o ai nostri studenti. Tra l'altro, Alberto, proprio in queste settimane è stata resa disponibile da Save the Children una ricerca che per noi adulti è un vero e proprio pugno nello stomaco, diciamo così. Sì, credo che sia proprio una ricerca che va un po' conosciuta e anche commentata. Sì. Cioè Save the Children, intervistando molti adulti rispetto alle loro abitudini di utilizzo dei social network, ha scoperto che davvero ci sono tantissimi adulti che considerano normale un contatto intanto nei social con soggetti minori, e questo tra le altre cose è una realtà per un adulto su tre. Tra l'altro, intervistati anche a proposito, ci sono anche molti adulti che considerano accettabile invece un incontro sessuale nella vita vera, cioè lo pensa quasi un italiano su tre. E in generale c'è proprio una tendenza a pensare come non problematico il fatto che il mondo dei ragazzi e dei giovanissimi possa proprio contaminarsi, entrare nel mondo invece degli adulti, proprio dei quarantenni e dei cinquantenni, che questa commistione di ruoli dove tutti sono alla pari, dove tutti un po' possono fare tutto con tutti, sia un dato ormai di modernità e di normalità. Ecco, di nuovo io mi sento di dire, sia come genitore che come professionista, che come adulti dobbiamo proprio un po' imparare a ripresidiare i ruoli. Noi non siamo i migliori amici dei nostri figli, noi siamo per loro persone adulte e di riferimento, e quindi dobbiamo effettivamente costruire dei limiti, generare la percezione che non tutto è possibile tra generazioni così lontane. Alberto, tu citi molto spesso gli adulti, circoscrivo un po' il concetto, io parlo di giornalisti, che sono comunque adulti, fanno una professione molto delicata, e proprio questa settimana il tema delle abitudini sessuali dei giovani è stato trattato in maniera molto forte da un quotidiano. Che ne pensi? Io credo che questa è un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere. Credo che fai molto bene anche tu come giornalista a dire che dobbiamo un po' guardare questo fenomeno con attenzione. Ho visto l'indagine, ho visto l'articolo, io trovo che parlare con così tanta leggerezza, in modo un po' così generico e generalizzato, di comportamenti che sono davvero molto pericolosi e molto a rischio nel mondo dei ragazzi, non dovrebbe essere possibile nel mondo del giornalismo. Cioè io credo che si possano anche trattare i temi più scabrosi oppure più pericolosi, però dobbiamo sempre farlo non mettendoci a livello di un ragazzo, non parlandone come se ne parlerebbe magari in palestra tra ragazzini. Dobbiamo tenere uno sguardo intanto più alto e poi anche imparare a non prendere sempre solo il peggio, cioè l'estremo, usare delle situazioni che sono probabilmente davvero marginali e raccontarle così sbattute in prima pagina, facendo identificare poi un'intera generazione o la maggioranza delle persone con storie che non sono invece storie della maggioranza. Alberto, direi che adesso è tempo dei nostri consigli di lettura che tu hai scelto proprio sulla base dei temi che abbiamo portato in questo spazio di Cuore Denari dedicato alle famiglie. Sì, ho selezionato per i genitori una guida proprio appena uscita, molto concreta, molto pratica, molto ben fatta. È una traduzione di un testo americano che ha avuto molto successo negli Stati Uniti. Si chiama Parlare di sesso con i propri figli, renderli consapevoli per proteggerli, di Amber Madison, pubblicata dalla Erickson. Ed è un libro che ci aiuta a trovare le parole, ma non solo per spiegare i fatti, cioè il come si fa, ma anche per spiegare un po' il perché e il come avvicinarsi alla dimensione della sessualità in un modo responsabile, attento e delicato. E invece per le ragazze, per le giovanissime, proprio perché spesso si trovano sulle prime pagine dei giornali raccontate in un modo che magari non le rappresenta, appena uscito, scritto da Claudia De Lillo e pubblicato da Feltrinelli, Dire, fare, baciare, istruzioni per ragazze alla conquista del mondo, un libro molto divertente che racconta l'essere ragazza, l'essere femmina in un mondo contemporaneo in un modo molto originale. Alberto, parlare di sesso con i figli è sempre difficile, anche perché la nostra generazione non ha avuto dei genitori che in qualche modo li hanno introdotti, gli hanno dato la possibilità, gli hanno dato modelli e parole per farlo. E molti genitori si chiedono se ci sia un momento in cui iniziare a parlare di fare educazione sessuale ai propri figli. A volte si teme, sono troppo piccoli. A volte quando diventano adolescenti si pensa che ormai il tempo utile sia passato e si preferisce delegare al gruppo degli amici questa educazione sessuale che invece dovrebbe essere fatta anche dai genitori. Sì, io penso che a ogni mamma e papà all'ascolto potremmo dire ripensatevi a quando avevate 10, 11, 12 anni e ricordatevi se nella vostra testa non c'erano un sacco di domande, di quesiti e di dubbi che avevano a che fare con la sessualità. Probabilmente eravate pieni di quel genere di domande. Ora, provate a vedere quante di quelle domande siete riusciti a fare alla vostra mamma, al vostro papà, probabilmente neanche uno. Il problema è che quando siamo bambini impariamo dai nostri genitori che l'ultima cosa che vogliono fare con noi è affrontare questi temi. Allora il problema non è aspettare che i figli ci facciano domande, ma man mano che cresciamo con loro usare ogni momento, ogni possibilità, ogni stimolo per poterlo fare. Credo per esempio che i due temi che abbiamo toccato oggi siano proprio temi che non vanno nascosti nelle conversazioni con i figli, ma vanno proprio utilizzati per poter costruire con loro un dialogo che ci permette di condividere opinioni, valori, pensieri e anche emozioni. Il nostro spazio con Alberto Pellai termina qui. Alberto, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Ci risentiamo domenica prossima. E intanto grazie. Vi rinnoviamo l'invito. Se avete dei dubbi, se volete scriverci, Alberto Pellai è a disposizione, può rispondere alle vostre domande. Insomma, aiutarci ad essere genitori più consapevoli. Grazie ad Alberto Pellai. Buona domenica. Buona grazie domenica. A voi. Buona domenica. E noi ci vediamo domani dalle 11 alle 12:30. Buona giornata a tutti. Buona domenica.